Storiacce di Raffaella Calandra. Mio padre è malato di ludopatia. Scrivo in merito alla puntata di Storiacce sul gioco d'azzardo. La situazione non è facile per me, per la nostra famiglia. Mio padre non si rende conto dei soldi che butta. Per me le lotterie istantanee dovrebbero sparire. Io e la mia famiglia ne saremmo davvero felici. Sara, nome di fantasia, lo vede ogni giorno a casa. Cosa significa? Lo vede ogni mattina e ogni sera sui visi del padre e della madre. Cosa può provocare in una famiglia la malattia del gioco? Quell'ossessione per la caccia alla fortuna che il più delle volte diventa baratro in rovina. Sara è una dei tanti ascoltatori di Storiacce che hanno voluto scriverci dopo la puntata dedicata al gioco d'azzardo con il racconto delle vite rovinate da gratta e vinci, slot machine e lotterie varie e dopo i conti fatti sui guadagni dei monopoli di Stato. Per questo siamo voluti tornare sul tema e girare alcune delle domande ricevute dai nostri ascoltatori direttamente al governo, che a Storiacce fa una missione importante e due annunci. Nel tempo si è esagerato, è il mea culpa del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che poi assicura la riduzione delle slot machine e la scomparsa dai bar. Voi siete d'accordo? Se vi va, scriveteci su Facebook alla pagina di Storiacce o su Twitter all'account Raff Calandra. I numeri sono almeno il 30% delle attuali macchine in distribuzione, quindi si dovrebbe arrivare a un totale di 250.000 rispetto alle 400 circa attuali, che in effetti, insomma, diciamo la verità, negli ultimi anni si è un po' esagerato. Per la prima volta il governo fa una missione, con giochi e slot machine si è esagerato, tanto che nel tempo l'Italia ha raggiunto il non proprio onorevole record del paese con più macchinette in tutta Europa e con tutte le conseguenze successive. Più di 1 milione di persone malate di gioco, centinaia di famiglie sul lastrico per colpa di slot machine, gratta e vinci, lotto e superenalotto, e uno Stato che da una parte fa cassa anche con questi giochi, dall'altra deve farsi carico attraverso il Servizio Sanitario Nazionale dei malati di ludopatia. Basti pensare che in un anno gli italiani, come abbiamo già raccontato in una prima puntata di Storiacce, si sono giocati 88 miliardi di euro. Per questo il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta lavora ora ad un provvedimento da mettere in pratica dal prossimo anno. Parte dal 1 gennaio 2017, perché da allora inizia il percorso, e fino al 2019 dobbiamo riuscire a fare questo passaggio. E non è il solo passaggio, perché questo è già deciso, ma adesso è in atto una discussione con gli enti locali nella conferenza unificata, quella che mette insieme enti locali e governo, e dobbiamo discutere anche di come poi nel territorio si gestisce questo processo di riduzione, razionalizzandolo anche, perché in effetti, insomma, diciamo la verità, negli ultimi anni si è un po' esagerato. Questa è una prima ammissione da parte del governo, questa della esagerazione che ha portato ad avere il record delle slot machine, e anche quello della distribuzione è un altro tema delicato. Però perché aspettare il 2017 per cominciare a ridurre del 30%? Beh, perché c'è un processo tecnologico, nel senso che noi oltre a ridurle sostituiamo anche tutte quelle che non sono collegate al totalizzatore centrale. Oggi ci sono molte macchinette che sono controllate da schede e quindi non sono particolarmente sicure e potrebbero essere anche, diciamo, taroccate. Quindi noi facciamo una doppia operazione: togliamo dal mercato tutte quelle che non sono collegate a un totalizzatore centrale e contemporaneamente facciamo la riduzione, per non fare una doppia sostituzione. È chiaro che per avere le nuove macchinette, avendolo deciso a dicembre di quest'anno, quelle tecnologicamente collegate, ci vogliono un po' di mesi perché gli operatori le facciano, insomma, le costruiscano. Ecco, sottosegretario, questo per quanto riguarda la riduzione dei numeri, però l'altro tema è anche la localizzazione delle slot machine. È stato già previsto che siano ad una certa distanza di sicurezza, soprattutto dalle scuole. Prevedete ulteriori forme di riduzioni per far sì che siano esclusivamente in alcune zone e casomai a distanza da quelle che hanno a che fare soprattutto con i più giovani? Guardi, bisogna distinguere tra due tipologie, cioè le macchinette che stanno nei bar e nei tabacchi e le macchinette che stanno dentro le sale giochi, che sono più controllate, dove l'accesso ovviamente è meno facile. Per quanto riguarda le prime, la mia personale opinione, che è quella sulla quale sto muovendomi, è quella di una drastica riduzione, sino quasi a togliere dai bar e dei tabacchi qualsiasi macchinetta, perché c'è una pervasività del territorio ed è anche più difficile controllare. Per esempio il divieto ai minori, che noi abbiamo messo molto rigoroso, ma insomma non è semplice. Quindi la soluzione più seria è togliere le macchinette dai bar e dei tabacchi, mentre invece a questo punto si tratta di ragionare e quindi in quest'ottica sarebbe risolto a priori, no, il problema delle distanze se li togliamo del tutto, mentre invece va affrontato per quanto riguarda le sale. E io personalmente penso che si può decidere un punto sensibile, ad esempio lei giustamente citava le scuole ed è forse quello più conosciuto, da un lato. Dall'altro bisogna anche garantire un po' che il mercato ci sia. Allora forse la strada migliore è quella di avere delle sale giochi fortemente specializzate, con controlli rigorosissimi, e in quest'ottica poterle avere distribuite nel territorio, perché c'è un altro fenomeno che sta avvenendo e che a me, diciamo, non piace, è quello che poi alla fine vengano concentrate tutte in zone periferiche, che a quel punto noi creiamo una specie di quartiere a luce rossa del gioco, con tutte le conseguenze che questo comporta. Quindi trovare il punto d'equilibrio è un problema che va fatto assieme agli enti locali. Quindi in sostanza solo sale giochi e a quel punto proibite ai minori, giusto? Assolutamente sì. Ecco cosa succede nella vita di chi diventa malato di slot machine come Fabrizio, casomai dopo un'iniziale piccola vincita. L'ho fatto così per fare una giocatina. Dopodiché si fa una vincita abbastanza consistente, anche se con le slot machine chiaramente non è mai consistente, ma è qualcosa di effimero, però col tanto giusto che ti porta a ripeterti, a cercare sempre di ritorno. Poi chiaramente vedi man mano che invece di diventare una soddisfazione diventa un'esigenza, e da quel punto di vista, ecco, dopo diventa tutta un rincorrersi per andare a giocare. Se quelle più visibili sono le slot machine, senza alcun dubbio ugualmente pericolosi sono pure i tagliandi della gratta e vinci o le puntate al lotto o al super enalotto, anche se all'apparenza quei pochi euro alla volta sembrano non spaventare quanto le puntate del tavolo verde dei casinò. Ma invece, come pure la storia di Fabio dimostra, neanche tanto lentamente ci si può giocare tutto e perdere tutto, famiglia compresa. Ti piace vincere facile? E anche di più! Io ho pensato che si potesse vincere abbastanza facile, no? Come purtroppo dice la pubblicità. Ho cominciato a prenderne sempre di più, fino a quando non mi sono indebitato, fino al collo, prestiti finanziari, banche. Io dipendevo dal gioco. Lei ha fatto il conto, più o meno, di quanto ha speso in gioco? Ma io direi sui 70-80 mila euro. Quante cose si possono fare con 70-80 mila euro? Quando ci pensa oggi, Fabio si mette le mani nei capelli, ora che sta provando a disintossicarsi dall'ossessione del gioco, proprio come fanno gli alcolisti. Ora che dopo una ricaduta conta ogni giorno lontano da bar e tabacchi e dai tagliandi del gratta e vinci come una piccola vittoria ulteriore. Lui, come molti altri, hanno già raccontato a storiacce come a peggiorare tutto fosse proprio la facilità con cui si può trovare tagliandi o macchinette e il richiamo continuo della pubblicità, un elemento di cui il governo è consapevole pur nella necessità di conservare questa fetta importante di mercato che garantisce non pochi guadagni ai monopoli di Stato, cerca ora di ridurre il danno e da qui partiamo nella seconda parte di Storiacce anche con lo sottosegretario all'economia. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. Storiacce. France, ma non ti sarebbe piaciuto fare altro? Obiettivo oro, quarto piano. Ricevuto. Chi sei? Sono l'agente numero 10. Dov'è l'oro? Missione oro compiuta. Non ho visto nessuno. Quasi nessuno. Potevo fare l'agente segreto. C'avevo i numeri. 10 all'8, questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza patologica. Basta questa piccola raccomandazione finale pronunciata velocemente. Il gioco può provocare dipendenza, a far sentire lo Stato con la coscienza a posto, ad allontanare ogni responsabilità rispetto ai tantissimi che si rovinano mentre i monopoli si arricchiscono. Per la prima volta, come avete sentito nella prima parte di Storiacce, ora c'è un'ammissione di colpa da parte del governo, un'ammissione di una esagerazione. Forse negli ultimi anni si è esagerato, ha detto a Storiacce il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Di sicuro l'Italia ha conquistato il primato del paese con più slot machine per abitante in Europa. Di sicuro il numero dei malati di ludopatia è esploso e grava anche sul Servizio Sanitario Nazionale. Di sicuro ora l'esecutiva sta cercando di correre ai ripari e annuncia, come avete sentito, una riduzione del 30% delle slot machine e la scomparsa da bar e tabacchi. Ma come si pensa di riuscire a conciliare la salvaguardia della salute pubblica col bisogno di fare cassa? Impresa complicata questa per il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Intanto partendo dal presupposto che sono in contraddizione, cioè sapere che la scelta che stiamo facendo come governo, quella cioè di razionalizzare e ridurre l'offerta, comporta nel medio periodo anche una riduzione delle entrate da gioco, questo è inevitabile. Va messo nel conto, va fatto da qui, anche la gradualità aiuta, ma non c'è dubbio. In secondo luogo, alzando il livello tecnologico, sì, come dicevo prima, le macchine ad esempio controllate, ma guardi, c'è poco da girarci attorno. Se si è esagerato con l'offerta e l'opinione nostra è quella che bisogna ridurre l'offerta, proprio per ridurre anche gli effetti negativi che questo comporta, non in una logica di proibizionismo assolutamente, però questo mette anche nel conto una riduzione delle entrate per lo Stato. Avete stimato fino a che tetto, fino a che massimo diciamo di riduzione siete disposti ad accettare? Beh, intanto abbiamo stimato il numero delle macchinette, poi le conseguenze sul piano delle entrate lo valuteremo, ma è chiaro che se noi uniamo l'idea di ridurre dell'almeno il 30%, ma applicare questo nel modo che dicevo, cioè praticamente togliendo dal bar i tabacchi e mettendoli sulle sale, dovremmo poi, se questo passa, questo secondo provvedimento, stimare, non siamo ancora in grado di farlo, però privilegiamo innanzitutto l'aspetto qualitativo, cioè la scelta che riteniamo giusto fare. C'è un solo accorgimento che bisogna aver presente quando si fanno questi percorsi, che è quello del rischio sempre latente della criminalità organizzata e del gioco illegale, che è una piaga che in Italia era molto più rilevante, poi lo si è combattuto col gioco legale. Oggi bisogna anche su questo trovare un equilibrio, vorremmo evitare che ci fosse un nuovo inasprimento dell'illegalità. Anche questo provvedimento è possibile immaginare che possa coincidere con quell'altro, quindi 2017, oppure è prematuro? No, non è prematuro, perché se come noi stiamo adesso discutendo con gli enti locali, potessimo, come io mi auguro e lavoro per questo obiettivo, raggiungere un'intesa con gli enti locali entro giugno di quest'anno, il decreto poi applicativo può assolutamente arrivare nell'arco di un paio di mesi e quindi il 2017 potrebbe essere davvero un anno di svolta. L'ultima cosa che le chiedo, sottosegretario, è questa. Molti ascoltatori di Storiacce, dopo la puntata che abbiamo fatto con anche racconti di persone che si sono rovinate col gratta e vinci, con le slot machine, insomma con vari giochi, hanno raccontato, testimoniato come anche, oltre che la gran quantità di slot e la facilità del gioco, ma anche la quantità di pubblicità in qualche modo peggiora la situazione e rappresenta una tentazione. Per fortuna siamo andati più avanti, nel senso che nella legge di stabilità ultima abbiamo proibito in tutte le TV generaliste la pubblicità dei giochi dalle 7 del mattino alle 22 di sera, quindi è un passo rilevante che abbiamo fatto e che ha in qualche modo cambiato l'approccio, perché effettivamente quello che lei diceva, l'abbiamo constatato, se vogliamo ridurre l'offerta dobbiamo ridurre anche l'incentivo dell'offerta, quindi la legge è già in vigore, dalle 7 alle 22 durante la giornata non si può fare pubblicità sul gioco. Hanno una popolarità molto forte, no? Se anche si utilizza un personaggio popolare come Francesco Totti per fare da testimonial. Forse il problema di fondo che abbiamo tutti è, nel momento in cui siamo convinti che bisogna privilegiare la salute pubblica, riportare anche il gioco ad una condizione di normalità, cioè fa parte di una visione ludica parziale della vita, purché non sia patologico e purché non sia compulsivo. La strada tracciata dal governo è la stessa in realtà suggerita da un altro ascoltatore di Storiacce, uno del settore, che ci scrive che il problema non è il gioco in sé, ma la mancanza di regole chiare e soprattutto, leggo dal messaggio di Andrea, non esiste un organismo che permetta a chi soffre di ludopatia di auto-escludersi. In Gran Bretagna, ci racconta, si chiama Self-Enrollment National Self-Exclusion. E ancora, rifletteva l'ascoltatore come il grosso problema italiano sia la presenza troppo capillare delle slot machine, troppo capillare per avere un controllo adeguato. Una riflessione condivisa evidentemente dall'esecutivo se, come avete sentito dalle parole della sottosegretario Baretta, si lavora ad una diminuzione del 30% delle slot machine e alla scomparsa totale da bar e tabacchi a favore solo di sale giochi controllate. Un annuncio questo che di sicuro farà piacere a chi, come Sara, ci ha voluto scrivere dopo la prima puntata di Storiacce dedicata al gioco d'azzardo per raccontarci la sofferenza sua e della sua famiglia con un padre che si gioca tutto e sta perdendo, oltre ai loro risparmi, anche la serenità della propria casa. Problema serio quello del gioco, che qui a Storiacce continueremo a monitorare e andremo anche a verificare quanto garantito ora dal sottosegretario all'economia Baretta venga effettivamente poi realizzato. Ma col vizio del gioco e con le conseguenze del gioco si confrontavano, ahimè, già pure gli antichi nel tempo senza tempo del mito. Linea allora, come sempre a questo punto, a Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento, voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Anche gli antichi sapevano bene cos'era la ludopatia. Prendete il gioco degli astragali, ossicini di animali usati come dadi, con quattro facce, l'1, il 3, il 4 e il 6. Ci si divertivano i ragazzi, ma anche gli adulti li usavano per giocare d'azzardo, tirandone 4 alla volta. Il colpo peggiore era quello del cane, 4 volte 1. Il colpo migliore era detto di Afrodite o di Venere, quando uscivano tutte facce diverse. Giocava la gente comune, ma giocavano anche gli imperatori. Augusto era un appassionato, passava ore dopo cena a giocare con gli amici e scommetteva un denario d'argento a ogni tiro di dadi. Giocavano anche i sacerdoti, che usavano il lancio dei dadi anche per trarre profezie, lanciando gli astragali davanti alla statua di Dio. Ma giocavano anche gli dei stessi e gli eroi. Uno dei vasi dipinti più belli della Grecia antica, che sta al Museo Vaticano, mostra Achille e Aiace, i più grandi eroi della guerra di Troia, che giocano a dadi in una pausa della battaglia, con le lance appoggiate sulle spalle. Il pittore ha disegnato come fossero fumetti anche i numeri che escono dalla loro bocca. 4, dice Achille, 3, grida Aiace.